Oggi abbiamo qui con noi, per la quarta lezione di questo ciclo, il professor Franco Rella, e in un certo senso ci muoveremo, credo, su un terreno un po' meno consueto del solito, nel senso che i problemi che anche nell'ultima lezione erano scaturiti dalle parole della professoressa Mangoni saranno in un certo senso oggi analizzati, credo, da un altro punto di vista. Nel senso che la parola crisi, coniugata appunto come nella versione di crisi del liberalismo, crisi del parlamentarismo e via dicendo, crisi del positivismo, verrà oggi vista dal punto di vista della crisi invece del soggetto che aveva costruito quel moderno. E questa crisi del soggetto indagata attraverso la spia, lo specchio della letteratura, del romanzo, credo, in modo particolare. Il professor Franco Rella è molto conosciuto, quindi io credo di potermi, diciamo, esimere dal dire anche solo poche parole sulla sua opera. È molto conosciuto sia perché i suoi libri appunto sono molto letti e sia perché appunto è di Rovereto, tra l'altro. Insegna a Venezia letteratura. E io ringrazio molto appunto per l'impegno che si è assunto, sia a nome dell'Istituto che a nome del professor Schiera, che non è presente qui con noi. Grazie molte e cedo subito la parola. Sì, forse il taglio che io darò a questo intervento sarà davvero un po' inconsueto, nel senso che mi è stato chiesto di indagare il versante letterario del problema della borghesia, dell'autocoscienza della borghesia tra 8-900 e i primi decenni del Novecento. E io credo che in effetti, come hanno dimostrato alcune grandi analisi di questo periodo, dall'esperienza della modernità di Berman fino al libro pubblicato molto recentemente dal Mulino di Frisby, Frammenti di modernità, che il centro di un'indagine di questo tipo debba essere portato sull'esperienza della modernità, cioè come l'uomo vive il suo presente, in questo caso il presente appunto di questa crisi, di questo movimento di passaggio tra 8-900, e in effetti non c'è forse luogo in cui questa si articola, si dice come la letteratura. E in particolare il nodo centrale di questo tipo di analisi rimane la figura assolutamente più importante probabilmente da questo punto di vista di Baudelaire. Ecco, io quindi cercherò di dare un quadro generale analizzando in profondità Baudelaire e poi dando alcuni motivi di prolungamento delle analisi, dei percorsi individuati all'interno di Baudelaire, sperando poi che se c'è un interesse specifico nel dibattito, nel discorso, nelle parole che diremo poi, ci sia la possibilità poi di articolare anche su esemplificazioni magari legate alla letteratura italiana, legate all'esperienza della letteratura italiana. La scelta di Baudelaire è determinata dal fatto che Baudelaire, insieme a Marx e insieme a Nietzsche, ma più di Marx e più di Nietzsche, è l'autore che si dà la prima grande teoria della modernità e al tempo stesso la prima grande critica della modernità. Io direi che molto il dibattito attualmente tra i sostenitori del progetto, cosiddetto progetto moderno, il progetto di emancipazione della soggettività, sostenuto per esempio da un filosofo come Habermas, e i cosiddetti postmodernisti, siano determinati dal fatto che non è stato ancora chiarito, loro non si sono ancora chiariti dentro questo dibattito filosofico, il pensiero di un autore come Baudelaire, che ha dato una teoria della modernità ma al tempo stesso anche una critica della modernità. C'è la tendenza a separare le due cose, come se il critico della modernità fosse in qualche modo astratto dalla modernità stessa, ne fosse come dire, o un'anticipazione o una posticipazione, e non invece il protagonista. E cominciamo comunque da un paradosso. È paradossale, appunto, osserva Octavio Paz nel suo discorso di accettazione del premio Nobel, ma l'artista del nostro tempo sembra votato alla ricerca di questo tempo, il tempo della modernità, che commossa, non si sa se più astuta o più candida, si è cercato di esorcizzare con il concetto di postmodernità, come se questo post, questa ulteriorità, non fosse anch'esso un paradosso dentro il paradosso, come se la modernità ulteriore non fosse appunto una modernità ancora più moderna. Il primo grande artista, il più grande poeta, ma forse anche il più grande teorico dell'arte e della poesia della sua epoca, che ha toccato questo paradosso della modernità, scoprendo che essa altro non è che il tempo che si disfa tra le mani, dice Octavio Paz, è stato Charles Baudelaire, che già nel 1846, nel Salon di pittura, ne aveva cantato l'eroismo e che via via ne precise i tratti finché nel Pittore della vita moderna afferma che la modernità, cioè ci mostra, ci esibisce la modernità in tutti i suoi tratti ambigui e inafferrabili. È un deserto di uomini, scrive Baudelaire, che si estende in un infinito dei tratti inafferrabili perché la sua essenza è il transitorio, il fuggitivo, il contingente, ma è solo in questo contingente che traspaiono come una luce affondata nel buio e al contempo protetta dentro questo buio e della caducità i tratti dell'eterno. La bellezza che dobbiamo cercare con accanimento e furore, dice Baudelaire, con devozione, con amore, altro non è che questa duplicità che contiene, cioè di contingente e di eterno, che contiene in sé la duplicità stessa dell'uomo, le innumerevoli tensioni e le polarità che lo abitano e lo costituiscono come soggetto. Per questo, afferma Baudelaire, sfido chiunque a scovarmi un esemplare qualsiasi di bellezza dove non siano contenuti i due elementi, cioè questa polarità. La bellezza ha rapporto con la vita solo se ne accoglie la dissonanza, tutta la dissonanza, esasperandola fino al punto in cui essa si apre, in essa si apre il varco attraverso cui si rende visibile il segno di una possibile redenzione. Il moderno è il tempo delle città immani, è la percezione delle mille vite che vi si intrecciano nel groviglio delle loro innumerevoli storie, che ci dà l'esperienza di questa irredimibile caducità e al contempo ci fa intravedere la forma in cui questa può essere afferrata e resa significativa. L'arte, la poesia, la riflessione critica è la ricerca appunto di questa forma che è, come si è detto, quella di una bellezza costantemente ulteriore, spinta sempre più in là perché possa trascinare con sé in questa quête, in questa ricerca proprio, tutto ciò che è caduco, anzi per fare del caduco stesso il ponte verso l'altro. È in questa ulteriorità che possiamo leggere anche, dice Baudelaire, nel Pittore della vita moderna, negli occhi cerchiati di ombretto di una donna, che il tempo che si disfa, che trascorre senza posa, appunto si apre all'altro tempo, come gli occhi cerchiati dall'ombretto di una donna non sono un tentativo di enfatizzare o di negare la natura, ma sono un al di là della natura, dice, fanno di questi occhi una finestra aperta sull'infinito, perché sono un di più, un supplemento rispetto a ciò che è naturale, così questa ulteriorità è appunto un ponte che ci porta da questo tempo che si disfa a quell'altro tempo, dice Octavio Paz, quello vero, quello che cercavamo senza saperlo, il presente, la presenza. È così che Baudelaire affonda nel male per scoprire la bellezza nella sua occulta connessione con il bene. È così che si spinge nella corruzione per scoprire in questo rovinoso venir meno delle cose qualcosa che le possa salvare e redimere. È così che egli si spinge il coltello nella carne del mondo e nella sua carne. C'è una grande poesia di Baudelaire che dice: io sono il coltello e sono la piaga, per aprire una ferita attraverso cui l'universo stesso possa entrare, come ha detto, come dirà Simone Weil, dentro di noi. Gli occhi dei poveri, i molti sguardi inquietanti che ci guardano dai poemetti dello spleen di Parigi, sono essi stessi questa lama che scava questa ferita dentro la nostra coscienza. Nessuno forse è andato tanto lontano in un'opera così lacerante, che apre di continuo varchi nel mondo e nel soggetto, per giungere al punto in cui nella sofferenza, in una sofferenza che può esprimersi anche come gioia, soggetto e mondo sembrano poter giungere a toccarsi. Baudelaire sapeva che, come dice una grande autrice spagnola, Maria Zambrano, che la luce entra come attraverso una ferita e che essa circonda la tenebra ed entra in essa come un serpente, ed è per questo che gli è andato così lontano che ha dovuto chiedere nei fiori del male la complicità al lettore, suo simile, suo fratello, in un'esperienza che non poteva essere lasciata alla mera comprensione di una lettura distratta. E qui con Baudelaire abbiamo forse, con questo appello al lettore, forse, come ha sottolineato anche Benjamin, uno stacco rispetto a tutta la poesia precedente. La poesia diventa il luogo di un'esperienza che deve essere ripetuta nel lettore perché non può essere semplicemente comunicata. Baudelaire ha scritto Bonfoy, è il più grande poeta selvaggio, ma al contempo esatto. Friedrich ha scritto che I fiori del male sono il libro architettonicamente più rigoroso della lirica europea, in cui la metafora che esprime la dissonanza del mondo acquista il valore di esattezza matematica. Il cervello di Baudelaire, sempre allo stato di veglia, che ha prodotto una riflessione più profonda e più vera di Pascal, come ha detto Valéry, si spinge con maniacale precisione nelle zone più incerte, più fluttuanti, indefinite dell'esperienza umana. Il suo simbolo è il Tirso di Dioniso, come scrive in uno dei poemetti dello spleen di Parigi, intitolato appunto il Tirso, il bastone dei seguaci di Bacco, rigido e duro, ma percorso da fiorite spirali, da un arabesco di colori e di fiori. Il bastone è la volontà, dritta, ferma e incrollabile. I fiori sono la passeggiata della vostra fantasia, intorno alla vostra volontà. Sono l'elemento femminile che esegue le sue prestigiose giravolte intorno al maschio. Linea retta e linea arabesca, intenzione ed espressione, rigidità della volontà, sinuosità del verbo, unità del fine, varietà dei mezzi, amalgama onnipotente e indivisibile del genio. Quale analista avrà il detestabile coraggio di dividervi e di separarvi? E già con questa proposizione, che anticipa diretta a Liszt, un musicista, che anticipa in modo stupefacente la teoria dell'Apollinio, del Dionisiaco, della nascita della tragedia di Nietzsche, cioè dell'arte fatta appunto di queste istanze così abnormi, caotiche, aorgiche, indefinibili, che appunto diventano arabesco nel momento in cui si avviluppano intorno alla durezza apollinea, in cui prendono appunto forma nello scontro, nella tensione con l'apollinea. E già in questa definizione del linguaggio vedremo come Baudelaire arriverà addirittura a proporre un linguaggio diverso per la modernità. Intanto proseguiamo la nostra analisi. Se il disegno arabesco è il più spiritualistico dei disegni, se esso è il più ideale di tutti, questo può essere reso visibile, può manifestare il suo segreto, il suo enigma, soltanto se controllato dalla più rigida volontà. Per un lungo tratto della sua vita e della sua opera, la metrica e la rima hanno svolto questa funzione per Baudelaire. Ad un certo punto non basteranno più per contenere questa duplicità, rigore e immaginazione, che si è calata fin dentro il linguaggio e le sue forme. Per nominarla, Baudelaire giunge appunto a questa straordinaria anticipazione della grande intuizione nicciana, quella dell'opposizione fra dionisiaco e apollineo, dentro la forma dell'arte, dentro la forma dell'arte tragica. L'arabesco di Baudelaire è, a mio giudizio, arte tragica. Lo è nella fluidificazione dei confini tra bene e male, tra umano e divino, lo è nell'insolubilità delle contraddizioni che la sua opera mette in campo, lo è nella passione che lo spinge a cogliere in ciò che è manifesto l'oscuro e l'invisibile. Nel 1857, l'anno in cui Baudelaire pubblica I fiori del male, cioè l'opera, come ha detto Friedrich, più grande forse, più costruita, più perfetta della lirica dell'Occidente, Baudelaire scrive nelle nuove note su Edgar Allan Poe, c'è un punto in cui la novella ha una superiorità anche sulla poesia. Il ritmo è necessario allo sviluppo dell'idea di bellezza, che è il fine più grande e nobile della poesia. Ora, gli artifici del ritmo sono un ostacolo insormontabile a questo sviluppo minuzioso di pensiero e di espressione che ha per oggetto la verità. Pensate, un poeta che al vertice della sua attività poetica dice che il linguaggio della poesia è un ostacolo alla ricerca della verità. L'affermazione è capitale perché si tratta per Baudelaire dell'esplicitazione di un progetto che lo porterà al di là della poesia. Baudelaire ha sempre avuto preoccupazioni teoriche, ha sempre unito in ogni tratto della sua opera le preoccupazioni del moralista e del filosofo a quelle del poeta, ma a partire dai primi poemetti dello Spleen di Parigi, che datano appunto dal 1857, e soprattutto negli anni immediatamente successivi, tra il 59 e il 61, le preoccupazioni prevalgono. Baudelaire sta costruendo una nuova estetica che trova la sua nitida enunciazione nel Salon del 1859 nel pittore della vita moderna. Un'estetica che è una teoria della bellezza e al contempo un sapere per la vita, che porta in sé dunque i tratti dell'antica sapienza, un sapere del mondo e del soggetto che vive e abita il mondo. È il sapere della duplicità, è il sapere della modernità. Questo sapere non è più afferrabile, secondo Baudelaire, attraverso l'artificio del ritmo. Per esso è necessario trovare un nuovo linguaggio. È il linguaggio che viene definito nella dedica d'Arsenio Husset, appunto, nello Spleen di Parigi. È un testo, a mio giudizio, capitale per la comprensione di tutta la modernità ed è un testo come di non ritorno. Baudelaire non scriverà più poesia. Cioè, anche quando noi abbiamo dei poemetti in prosa che hanno lo stesso titolo e sono stati scritti molto vicino alle poesie che portano lo stesso titolo, la prosa viene sempre dopo come un passo ulteriore. E vedremo dove porterà questo. Dello Spleen di Parigi, dice Baudelaire, solo ingiustamente si potrebbe dire che non ha né capo né coda, perché al contrario tutto in esso è capo e coda, alternativamente e reciprocamente. Può essere tagliata in frammenti, e come un serpente ognuno di essi avrà abbastanza vitalità per parlare al lettore, per saldarsi nuovamente al resto, avendo appunto rinunciato sia al ritmo della poesia, sia il filo interminabile di un intrigo superfluo, quindi sia alla poesia sia al progetto del romanzo. Vedremo che qui si andrà a definire forse uno dei nodi della forma della riflessione teorica della modernità. L'oggetto di quest'opera è la descrizione della vita moderna, o meglio, nella pluralità delle vite moderne, di una vita moderna, ma astratta, che abbia dunque l'ambizione di offrire di esso un quadro generalmente significativo. Per questa descrizione è necessario, scrive Baudelaire, il miracolo di una prosa poetica, musicale senza ritmo e la rima, tanto mutevole e precisa da adattarsi ai movimenti lirici dell'anima, alle oscillazioni della fantasticheria, ai soprassalti della coscienza. L'ideale di questa lingua è un ideale ossessivo che nasce, Baudelaire dice, notate, quindi il polo del soggetto, i soprassalti della coscienza, le oscillazioni del soggetto, e dall'altra parte di un soggetto che è dentro nella frequentazione delle città immani, dall'intreccio dei loro smisurati rapporti, che nasce dal desiderio di coglierne appieno la dissonanza di questi smisurati rapporti. Quello che si esprime per esempio nel grido stridente del vetraio, perché Baudelaire pensa che questo grido possa diventare una canzone che possa esprimere tutte le desolanti suggestioni che questo grido invia fino alle mansarde attraverso le più alte nebbie della strada. Dopo aver raggiunto questo livello di coscienza dei suoi mezzi, Baudelaire, come vi dicevo, non scriverà più poesia. Grande poeta e grande pensatore, Baudelaire nello Spleen di Parigi ha trovato il modo per unire questa sua duplice vocazione in un testo che lo mette e che si mette costantemente in questione. Il lirismo più acceso si trasforma, trascorre nella battuta epigrammatica, il poema si trasforma in racconto, la novella diventa saggio in un movimento che non avrà uguali. In questa prosa mobile e fluttuante come il movimento delle città immani affiorano via e via tutti i grandi temi baudelairiani, tutti i grandi temi della modernità che poi potremo ritrovare in Pirandello, in Montale, in Svevo, in Proust, in Rilke, in Kafka, eccetera, eccetera. L'ossessione del tempo, la topia come dessituazione da ogni abituale condotta morale e intellettuale, la necessità di intrecciare il bene e il male per giungere ad una realtà in cui nulla della grande ricchezza del mondo venga distrutto, la solitudine, l'esperienza dell'infinito, del tutto limitato insieme, l'amore per la tradizione e l'ossessione del nuovo, un'esperienza del mondo così profonda e così tragica che apre nel soggetto la ferita attraverso cui l'universo penetra in esso e attraverso cui cola il suo essere per il mondo. Nel 1861 Baudelaire è impegnato appunto nella stesura di quest'opera, Lo Spleen di Parigi. Eppure in una lettera alla madre del 1 aprile proprio del 1861 egli parla di un grande libro a cui sogna da 2 anni, quindi già dal 1859, Mon cœur mis à nu, il mio cuore messo nudo, in cui ammasserò tutte le mie collere, se mai dovesse vedere alla luce le confessioni di Jean-Jacques Rousseau, sembreranno scialbe. È il libro, come scriverà ancora la madre nel marzo del 1865, in cui l'orribile si unirà al buffonesco, l'odio alla tenerezza. Il mio cuore messo nudo è un'opera che era già stata profetizzata come assoluta e al contempo impossibile da Edgar Allan Poe in Marginalia. Scrive Edgar Allan Poe: se qualche ambizioso carezza l'idea di rivoluzionare con un colpo solo l'universo del pensiero, delle opinioni, dei sentimenti umani, non deve far altro che scrivere e pubblicare un piccolo libro. Il titolo sarà semplice, poche parole di uso corrente, Il mio cuore messo a nudo. Ma poi il libretto dovrà tener fede al titolo. Nessuno ha il coraggio di scriverlo, nessuno avrà mai il coraggio di scriverlo, nessuno saprebbe scriverlo seppure avesse il coraggio. È quello che invece Baudelaire cerca di fare. Che cosa sta dietro questa impossibilità dichiarata di Poe e questo tentativo di Baudelaire, che ha avuto già un precedente nello Zibaldone di Leopardi e che avrà anche dei tentativi successivi? È quello di riportare il sapere del mondo al pathos del mondo, a quel sapere originario che risuona nel primo coro dell'Agamennone di Eschilo, quando dice Zeus ha dato ai mortali il destino, il sapere attraverso il pathos. Questo sapere stilla nel cuore degli uomini anche durante il sonno, anche senza volerlo. Quindi un sapere non che si muove attraverso la rimozione del mondo che avviene nella concettualizzazione del mondo, ma attraverso proprio lo spettro dell'esperienza del mondo, come si dà appunto in interiore hominis, cioè proprio nell'interiorità dell'uomo. Questo libro nasce dalle prime annotazioni in Baudelaire di Razzi, che poi si sovrappongono ai frammenti del mio cuore messo a nudo, e poi ancora si intrecciano più avanti con le annotazioni di Povero Belgio. Nasce dalla scoperta della nuova lingua, che abbiamo commentato più sopra analizzando la dedica dello spleen, e che ritorna quasi testualmente nel primo frammento del mio cuore messo nudo. Posso cominciare mon cœur mis à nu, non importa dove, non importa come, e continuarlo giorno dopo giorno, secondo l'ispirazione attuale, la circostanza, purché l'ispirazione sia viva. Dietro questo complesso di frammenti, a mio giudizio, sembra risuonare la terribile domanda che risuona nelle baccanti di Euripide. Tissophon, che cos'è la sapienza? La terribile risposta di Euripide era stata tu sophon, du sophia. La sapienza non è sapienza. Ciò che appartiene alla sapienza non è sapienza. Il paradosso di Euripide è terribile e spaventoso, perché nella tragedia Le Baccanti, alla fine con la morte di Penteo, l'esilio di Cadmo e di Agave, per la prima volta nel teatro greco la scena rimarrà completamente vuota, senza più nessun personaggio, cava perché su di essa campeggia appunto l'insoluto enigma di questo indicibile sapere. E a questa domanda e a questo enigma che Baudelaire vuole rispondere con la sua ultima opera, che è il complesso frammentario appunto del mio cuore messo nudo. Che cosa è sapienza oggi, nell'età del progresso, della celebrazione del tempo lineare delle scienze, delle immani città senza limite, dei luoghi giganteschi in cui non si può stare e che sembrano sempre sul punto di franare e di mutarsi in altro? Questa è la domanda che si pone Baudelaire. Rispondere a questa domanda significa precipitare, come prima mai era stato fatto prima, come mai lo stesso Baudelaire aveva fatto prima, nelle zone più oscure e più opache dell'io, attraversare le zone più impervie e resistenti dell'esperienza umana, muoversi rapidamente di scatto per essere all'altezza del mutamento che ci sovrasta e ci sopravanza. Baudelaire accumula così frammento dopo frammento, come aveva fatto prima di lui Leopardi nello Zibaldone, come dopo di lui faranno Nietzsche nei suoi frammenti e Benjamin nel Passage in Verde, in quella che non è un'opera incompiuta, ma forse la forma dell'opera nel moderno. Benjamin, in una notazione del saggio sulle affinità elettive di Goethe, scrive che la potenza del vero che si esprime nell'opera moderna si compie attraverso la cesura, e l'opera giunge a compimento e giunge a perfezione quando si riduce ad un pezzo, a un frammento del vero mondo, al torso di un simbolo. Cioè l'opera diventa vera, non si compie, giunge alla sua perfezione, non diventando un tutto ordinato, ma spezzandosi, facendosi frammento, mostrando cioè nelle sue discontinuità la discontinuità stessa del mondo e del soggetto. Quindi da questo punto di vista già Leopardi era stato un profeta di questa coscienza, autocoscienza della modernità, ma Baudelaire giunge proprio ad estremizzare in quell'opera che, proprio perché la critica non è stata in grado di gestirla, ha raccolto sotto il ridicolo titolo di Diari intimi, mentre non c'è, si può dire, nemmeno un'annotazione di tipo diaristico all'interno di essa. In Povero Belgio, che è la parte finale di questo grande frammento, pare che Baudelaire abbia trovato un oggetto al suo odio, un punto di consistenza, una patria nella resistenza pietrosa e ottusa della stupidità umana. Ma in Povero Belgio i frammenti si accumulano, si sovrappongono, diventano foresta. Ad un certo punto Baudelaire invoca addirittura il colera, la catastrofe che spazzi via il mondo e lui stesso e la sua opera con il mondo. ma ancora senza posa i frammenti si ripetono ossessivi, si ripetono uguali, diventano un sordo mormorio finché un giorno l'afasia che lo guardava minacciosa dalla pagina diventa la sua afasia. Baudelaire muore afasico, con gli occhi spalancati sul silenzio del mondo, di un mondo frammentario indescrivibile, sulla sua opera divenuta muta. Questo silenzio mormora e parla, è la più radicale contestazione dell'insieme simbolico cui la modernità aveva affidato le sue credenze e al contempo uno sguardo ulteriore, lo sguardo che si apre al mistero per custodirlo come una segreta speranza. E io sono convinto che proprio questo silenzio a cui Baudelaire alla fine guarda sia proprio sia stato quasi un tentativo di far tacere questo silenzio che ha generato, per esempio, le frasi di Wittgenstein, ciò di cui non si può parlare si deve tacere, proprio per far tacere questo cuore nudo che continuava a parlare attraverso questa pagina frammentata. Io credo che l'enfasi heideggeriana sul silenzio in cui noi dobbiamo porci nell'attesa dell'essere sia proprio far tacere ancora una volta questo mormorio che parla da questi frammenti, da queste pagine frammentarie. Chi invece non ha taciuto rispetto a queste pagine, rispetto a questo silenzio, chi ha cercato di entrare, di capire il linguaggio anche di questo silenzio, non è stata la filosofia, ma è stata la grande letteratura, oppure dei grandi teorici, come possiamo dire, marginali alla filosofia classica. Il più grande forse di questi, io adesso procederò più schematicamente per poi lasciare spazio ad un discorso, possiamo dire che appunto sono uno dei più grandi di questi teorici marginali che partono appunto da questa modernità, da questa frattura, da questa discontinuità del mondo del soggetto, è sicuramente Freud. Quali sono gli elementi che emergono dall'opera di Freud che vanno verso questa articolazione ulteriore di questo di questa rottura del mondo simbolico in cui l'uomo guardava se stesso e la ricerca di un nuovo linguaggio? La scoperta, cioè, che il soggetto è una pluralità, e quindi la ripresa della grande scoperta baudelairiana e di Nietzsche, quando Nietzsche aveva detto che il soggetto non è l'ich denke, l'ego cogito, l'io penso di Cartesio, di Kant, ma era appunto l'insieme, la mescolanza, l'ibridazione dell'ich denke e es denkt, dell'io penso e esso pensa, cioè del corpo, la ragione del corpo e della ragione. Così Freud prosegue e vede nel soggetto una pluralità di istanze, alcune delle quali sono unbewusste, sono inconsce, cioè sono non sapute, non sono mai state articolate dentro il sapere tradizionale. Quindi per far diventare bewusste questo unbewusste, per far diventare sapere questo non sapere, bisogna interrogare appunto la molteplicità dei dialetti che l'inconscio parla. L'inconscio parla, dice Freud, più di un dialetto, parla molte lingue. Queste molte lingue non possono essere comprese in un'unica lingua e quindi è necessario, dice Freud, per poter giungere ad una descrizione di questa molteplicità, appellarsi all'aiuto di una Bildersprache, di una lingua che si muova attraverso immagini e che quindi rinunci, diciamo, alla potenza descrittiva e rappresentativa del concetto per muoversi attraverso immagini. E quindi queste, e attraverso immagini e costellazioni di immagini, come sono quelle appunto del mito, dal mito di Edipo fino al mito di Nechia e Filia dell'ultimo Freud, questi grandi miti che riescono a parlare proprio nella loro costellazione di immagini di una pluralità e di una complessità che rimane al di fuori del linguaggio descrittivo. Il problema che appunto noi abbiamo, ponendoci di fronte a questa complessità anche appunto e cercando di proporre per questa complessità dei nuclei di immagini che ci possano presentare questa complessità, noi non operiamo attraverso la mimesi, attraverso un'imitazione, una rappresentazione mera, pura e semplice, ma operiamo attraverso, Freud dice, una costruzione. Noi diamo una costruzione significativa alla quale il soggetto risponde producendo altri significati. Quindi il che significa? Che noi non possiamo, non abbiamo più da un lato una realtà, come ci ha detto appunto la teoria della rappresentazione da Platone fino all'Ottocento, una realtà e dall'altro un linguaggio che la rispecchia, ma abbiamo da una parte una complessità da indagare, dall'altra la complessità di una realtà linguistica parallela che ha relazioni con questo mondo parallelo del soggetto e della realtà, ma che non la rappresenta mai compiutamente, tanto che l'analisi può dirsi infinita, interminabile. Questa idea in fondo del mondo, di questa rappresentazione che si muove come una costruzione parallela, d'altronde è la stessa cosa che troviamo alla base, per esempio, dell'autoriflessione dei poeti e degli artisti tra 8 e 900, quando Van Gogh diceva che lui poteva dare soltanto attraverso una sinfonia di gialli un mondo parallelo alla realtà, e quindi cercare di stabilire una relazione tra questi due mondi, una relazione significativa, lì dichiarava in qualche modo chiuso un percorso che aveva resistito per 2000 anni, cioè il linguaggio è o le figure o le immagini o i discorsi rappresentano in un modo più o meno perfetto la realtà. Da questo punto di vista, coloro, vi ho detto, che percorrono questa strada che è individuata, che è aperta appunto nella crisi della modernità e del soggetto, sono appunto è appunto la letteratura che cerca diversi percorsi all'interno di questo ambito e di questo spazio. Io vi darò proprio l'indicazione di alcuni di questi percorsi, eventualmente da analizzare poi insieme discutendone, no? Io vi ho anche nello schema che avevo mandato di questa lezione, che forse vi è stato distribuito, scrivevo talvolta in una moltiplicazione dell'io che diventa una sorta di sfarinamento dell'io stesso in un pulviscolo di sensazioni che non trovano più alcun punto di consistenza. Mettevo tra parentesi D'Annunzio. Qual è l'operazione, per esempio, di D'Annunzio che io qui uso come una semiotica, come una costellazione, perché dietro D'Annunzio c'è Barrès, c'è Maeterlinck, c'è tutta una zona di decadentismo europeo che arriva fino dentro all'uomo senza qualità di Musil, perché la prima grande romanzo sull'uomo senza qualità è il Piacere di D'Annunzio, che Musil leggeva e annotava più volte, come vediamo nei suoi diari, mentre scriveva l'uomo senza qualità. Che cos'è l'uomo senza qualità? È l'uomo che, avendo tutte le qualità, essendo pittore, poeta, scrittore, amante, esteta e così via, non riesce a sviluppare una di queste qualità perché non c'è un fine nel mondo che possa giustificare il prevalere di una qualità sulle altre qualità. E quindi queste qualità, che appunto questo insieme di qualità diventa come un'assenza di qualità, che appunto porta il soggetto d'Annunziano a cercare addirittura una moltiplicazione di se stesso e a farsi, come dire, una sorta di velo trasparente sul mondo, e a farsi mondo, a diventare come in Laus Vitae, trasfondersi in tutte le vite, o diventare proprio la pioggia tepida e fuggitiva, la pioggia che bruiva tepida o fuggitiva, o fresche ti siano le foglie del gelso nella, fresche ti sia la, la sera come le fruscio che fanno le foglie del gelso nella mano di chi le coglie, cioè queste sensazioni, il tattilismo addirittura, questo estendersi, farsi addirittura come una specie di corpo del mondo, perché nessuna di queste sensazioni potrà mai coagularsi e diventare una coscienza del mondo. Così D'Annunzio, che è stato criticato e rimosso ingiustamente dalla nostra letteratura, dalla nostra cultura, attraverso appunto, soprattutto in questo secondo dopoguerra, in realtà è uno dei più grandi vertici di questo tipo di ipotesi che si avanza all'interno della letteratura. Un poeta con cui si confronteranno Hofmannsthal, con cui si confronterà Proust, con cui si confronterà Musil, con cui si confronterà tutta l'intelligenza europea, perché questa è una delle ipotesi che è in campo. Questa è l'ipotesi di dissolvere qualsiasi possibilità di sapere e farsi, diciamo così, flusso del mondo nel mondo, fare del soggetto stesso, diciamo così, una cosa tra cose, una specie di punto di confluenza e di coagulo delle forze contrapposte che si muovono appunto e fluiscono nel mondo, fino appunto al gesto del decisivo della volontà di potenza, che sarà quello quando appunto una decisione interverrà e sarà appunto in questo caso di ordine politico e di tipo extraletterario, su cui far convergere tutto questo sapere. Oppure un'altra delle ipotesi è quella di considerare questa sorta di perdita di significato, di crisi del significato della realtà, come una sorta di perdita di senso. Non so se voi avete osservato, ci è stato detto che per esempio l'impressionismo e il naturalismo di Zola sono una sorta di rappresentazione oggettiva della realtà. In realtà non c'è nulla di più sbagliato di questo. Sono il tentativo di portarsi così da presso alla realtà, così vicini alla realtà, finché la realtà addirittura si sgrana e diventa invisibile, come nelle ninfe dell'ultimo Monet, oppure come nelle grandi allucinazioni di Zola, il quale non è uno scrittore realista. Già appunto ci hanno detto che Flaubert è uno scrittore realista ed è l'autore che ha scritto è in odio al realismo che ho scritto Madame Bovary. E il Zola è l'autore delle allucinazioni notturne della città infernale di Germinal. È l'autore, per esempio, che termina una delle sue grandi opere, La Bête Humaine, la bestia umana, con un'immagine che sarà ripresa da Dürermatt, di un treno che corre verso nulla a velocità sempre crescente nella notte. Cioè c'è proprio una vera e propria tentazione di nulla. Io trovo che questa tentazione di nulla, che si esprime per esempio stupendamente nella poesia e forse un mattino andando in un'aria di vetro mi girerò e vedrò il nulla alle mie spalle, poi dice Montale, cito memoria quindi non esattamente, vedrò, dice, case, colli, alberi accamparsi di getto per l'inganno consueto, dice, e io me ne andrò in un terrore da ubriaco, dice, come tra quelli che non si voltano. Cioè questa idea che attraverso il mondo ad un certo punto si apre lo spiraglio, cioè proprio la fessura che ci porta in un oltre che è appunto è il buio, è il nulla, è l'esperienza tragica appunto del mistero assoluto. E questa la vediamo campeggiare in alcune opere decisive della modernità. Pensiamo a Pirandello, per esempio, ci sono infinite novelle e drammi e commedie di Pirandello che si giocano su questa esperienza del nulla. Sono, per esempio, ed è proprio l'emergenza di un piccolo fatto, di un fatto qualsiasi, che apre come una breccia nel mondo. Breccia sembra fluire via tutto e lasciare il mondo vuoto. C'è una novella, per esempio, intitolata Pubertà, non è tra le più famose, in cui c'è una ragazza presa proprio in questo momento, diciamo, di incertezza sulla sua identità, che è la pubertà, che si trova, come tutte le mattine, di fronte al suo professore di inglese, per la lezione di inglese. L'occhio gli corre sulla gamba cavallata del suo professore e vede al di sopra del calzino e al di sotto del calzone della giarrettiera una striscia di pelle rosa con alcuni lunghi peli rossastri. Ecco, lei si butta dalla finestra, cioè perché quello è lo spiraglio proprio che apre come l'imbuto che risucchia via tutta la realtà, come dire, è l'emergenza improvvisa in un'esperienza che è quella quotidiana dell'orrore di un mistero che non possiamo capire né comprendere. Oppure un'altra novella molto più famosa, questa, la Carriola, in cui c'è il protagonista, un giorno se ne sta andando in treno e nel dormiveglia ha un'esperienza come visiva diversa da quella abituale. E da questa esperienza visiva nel treno che gli moltiplica lo sguardo, che in qualche modo scompone lo sguardo, arriva, come dire, ad una sorta di coscienza distorta, secondo il mondo distorta. Ma lui rientra, come dire, nella sua maschera abituale, a famiglia, figli, clienti, eccetera, e che gli impediscono in qualche modo la rottura rispetto questa cosa abituale, dice soltanto in un momento così particolare della giornata, quando tutta nella casa tace, quando tutti sono via, quando lo studio è vuoto, lui lentamente va a chiudere a chiave la porta, afferra la vecchia cagnetta per le zampe posteriori e le fa fare qualche passo sulle gambe anteriori come una carriola. Questo non è un gioco da bambini, la cagnetta lo sa. È il gesto dell'assurdo assoluto, è il gesto appunto in cui il mondo dei nostri gesti abituali è diventato appunto un mondo di assoluta insensatezza. Noi potremmo trovare anche esempi, per esempio in Svevo, di questa insensatezza. Pensate per esempio al suo corteggiamento per adesso non mi ricordo se si chiamava Ada o chi, di Zeno, e poi per finire per sposare la sorella per un equivoco che non riesce a chiarire. Cioè proprio questo movimento del nulla, di questi elementi, di queste fratture, di questi oggetti, diciamo, di queste frazioni di mondo che sembrano improvvisamente metterci di faccia ad un mistero. E dice George Steiner che il vero compito della grande opera è appunto quello di portarci ad affacciarci sul mistero che è chiuso nel quotidiano, nel nostro quotidiano. Dice questo è il grande compito della letteratura, e dice, ed è proprio perché il mistero, questo mistero fa paura, dice che il nostro tempo è inventato, non potendo rimuovere questa grande letteratura, questo grande diciamo, rapporto con il mistero, ha inventato un certo tipo di critica, come quella decostruzionista, ermeneutica, di cui i protagonisti in Italia sono Vattimo o Ferraris, in Francia, in America, Derrida e Derridiani, che giocano appunto sul testo nell'indifferenza di qualsiasi significato che si proponga del testo stesso, perché tutto rinvia sempre al testo e mai al mistero che sta al di fuori del testo. Io posso prendere di Nietzsche il frammento in cui Nietzsche parla dell'ombrello dimenticato caso, il frammento in cui parla, mi dice che se io guardo l'abisso mi guarderà, E questi due frammenti sono assolutamente identici perché rinviano ad un gioco che è solo infratestuale. E dice Steiner, in un libro secondo me molto bello, intitolato Presenze reali, non ancora pubblicato in Italia, che questa critica sembra essere fatta proprio in una specie di galleria di echi, in una rete fitta di rimandi, ormai non più alle opere, ma da articolo a articolo, da saggio a saggio, da libro a libro, proprio per creare una cortina di fronte a questa lacerante coscienza che la modernità ci propone. Ma non è soltanto questo, diciamo, l'esito di questa modernità. C'è, a mio giudizio, anche il tentativo di andare oltre questi esiti del negativi, questi esiti di questo sfarinamento dell'io o di questa tentazione del nulla. Non sto parlando di una letteratura più grande o meno grande, sto parlando proprio di tentativi di giungere proprio a questo sapere del cuore nudo che ci aveva proposto Baudelaire. Uno di questi grandi tentativi è sicuramente La ricerca del tempo perduto di Proust. La ricerca inizia con un risveglio, è il momento in cui la pluralità delle cose, delle forme, delle esperienze vissute si muove intorno a noi prima di essere semplificata e uniformata dalla forza dell'abitudine. È il momento anche in cui la forza delle immagini si lega all'intelletto che si sveglia. È il momento di quello spazio di mezzo in cui abbiamo un'esperienza immaginale e noetica insieme. Benjamin, in una serie di testi del Passage en Werk, che vanno dal 1927 al 1940, ha ripetuto infinite volte che l'immagine del risveglio proustiano è l'immagine di un modello conoscitivo nuovo, del suo proprio modello conoscitivo, che è quello di una dialettica in stillstand, in stato di quiete. L'immagine è molto audace, infatti dialettica e arresto sono termini di un ossimoro, sono proprio una contraddizione in termini, nei quali Benjamin voleva cogliere il paradosso di un conflitto i cui termini contrapposti si rendono conoscibili nella tensione del conflitto stesso senza mai risolversi in una sintesi superiore, senza mai che l'uno potesse annientare e vincere l'altro. E quindi cioè, quello che interessava Benjamin in questa immagine del risveglio era una tensione in cui i termini antitetici si rendono conoscibili nella loro tensione, cioè nella loro differenza. Ciò che portava a conoscere Benjamin era dunque la differenza. Come ha detto Proust, il risveglio dura un attimo e poi le nostre abitudini esistenziali o cognitive riprendono il sopravvento. Perché questo istante si prolunghi deve diventare una soglia, l'imen, che ci introduce in un nuovo viaggio nell'ovunque della pluralità frammentaria, sorretti da una speranza o da una fede o da una certezza, che è quella che faceva intravedere a Baudelaire in mezzo ai labirinti di pietra delle grandi città, la possibilità appunto di trasformare il canto stridente del vetraio in una canzone. Proust, e questo non ha mai mancato di stupire i suoi critici, parlava della sua opera come di una specie di romanzo, non come di un romanzo, come qualcosa che sfuggiva, pur essendo una narrazione, ai generi letterari classici. La sua ambizione, superato l'estetismo di Swann, D'Annunzio per intenderci, o di Bergot, di Ruskin e di tutto ciò che noi possiamo oggi chiamare decadentismo, era quello di raggiungere un sapere per la vita, il sapere che andava oltre l'apatia filosofica e riscopriva il pathos del mondo, l'amore delle cose che vengono appunto ad affacciarsi, secondo Proust, sulla soglia. La volontà di potenza, di possesso, di riduzione a uno si era calata anche nell'amore, l'aveva trasformato nella forza della gelosia. La gelosia è uno dei grandi temi della ricerca del tempo perduto, in una cupiditas distruttiva mortale. Questo sapere del conflitto senza potere, dialettica in stillstand, contrapposizione senza sopravvento di nessuna delle due parti, riscopre anche l'amore come salvezza, come la vicenda che ci porta accanto agli esseri che saranno sempre vicino a noi nella nostra vita, ritrovati, mai più perduti, perché mai più né posseduti né annientati. Diceva Benjamin che la vita abituale, quella che ci difende dal nuovo e dall'altro, è noia, un panno caldo e grigio, rivestito all'interno di una fodera di seta arabescata dei più smaglianti colori. L'abbiamo vista in sogno, dice Benjamin, ma chi potrebbe con un gesto rivoltare questa fodera? L'amore per le cose, la fedeltà a ciò che è stato e ciò che deve venire è il gesto prustiano che rovescia appunto questa fodera. Le revers moins du monde que de la vie, dice Benjamin commentando Proust. Il rovescio meno del mondo che addirittura della vita. Il gesto che rovescia e che scopre dunque la vita stessa. Perché la filosofia, questa è una domanda che mi sono fatto, non ha visto fin dentro questa fodera? Perché l'ha vista un narratore come Proust e l'ha vista un critico o un pensatore marginale come Benjamin? Kundera ha cercato di dare una risposta a questa domanda ipotizzando che il romanzo sia la grande forma conoscitiva della modernità, cioè la grande forma conoscitiva della modernità che nasce grosso modo quando Don Chisciotte, nel momento stesso in cui Cartesio cercava le regole per la direzione dell'ingegno e quindi le regole per la definizione di un sapere certo, esce nel mondo e scopre appunto e combatte contro i mulini e quindi cioè stabilisce un sapere dell'incertezza. Questo sapere dell'incertezza, dice Kundera, che è forse la più grande scoperta dello spirito europeo negli ultimi due secoli, appunto, è il compito che fa dell'opera narrativa, dell'opera d'arte, un'opera necessaria, un'opera che ci confronti con ciò che già sappiamo e non si ponga come compito di entrare nelle zone dell'incertezza attraverso lo strumento proprio e la possibilità che il mezzo propone, è un'opera kitsch e quindi, dice Kundera, è un'opera assolutamente immorale. Quindi su queste annotazioni possiamo cercare di andare verso la conclusione di questa premessa. Quindi abbiamo visto che Baudelaire appunto ha parlato di questa bellezza come l'insieme del contingente, del fuggitivo, come l'espressione della dissonanza, come l'espressione della frammentarietà del mondo. Abbiamo visto alcuni scrittori addirittura stregati da questa impossibilità di certezza andare verso un nulla, come se il nulla fosse qualcosa di preferibile a questo percorso precario appunto attraverso la precarietà. Questa bellezza come discontinuità, come dissonanza, è ciò che Dostoevskij ha detto che salverà il mondo. Brodsky, il recentissimo premio Nobel, ha detto che questa frase va presa alla lettera, nel senso che la bellezza come forma del possibile, per essere tale, deve avere cura del possibile. Non può annientare niente, né una cosa, né un'idea, né una possibilità, pena annientare se stessa. Pensare il moderno dentro il nostro presente forse significa oggi pensare le cose appunto senza nessuna volontà di possesso, di potenza, ma come una grande peripezia, come un'avventura, come una complexio, come un intrigo, come un paesaggio. Si tratta forse di proiettarsi appunto in quell'Andersdenken, in quel pensare altrimenti, che Musil aveva proposto il culmine di un'esperienza che incrocia curiosamente quella prustiana, quando unificando il diverso nella tensione di una metafora, scopre proprio in questa tensione una inusitata, mai provata prima, profondità, il senso di una verità fino a quel momento incognita, quella verità che non ha più il nitore dei topoi filosofici classici, ma che, come ha detto Melville, ha i confini arruffati. Quindi oggi noi ci troviamo di fronte ad una verità che ha i confini arruffati, non ha frontiere certe, ma appunto questi confini che si aprono all'altro. E quindi è una verità in qualche modo atopica, una verità strana, è una verità aperta appunto con questi confini porosi sul nuovo che è stato e sul nuovo che deve venire. Vi ringrazio. Grazie mille. Credo che abbiamo tutto il tempo per porle, professor Rella, qualche domanda di chiarimento o ulteriori proposte di lettura. Per rompere il ghiaccio io avrei due problemi, insomma, che la relazione di Rella mi aveva suscitato. Uno, e volevo chiedere, questo problema del soggetto e della crisi, il soggetto intorno a cui riflettono personaggi come Baudelaire e altri che lei ha citato, è un soggetto, come dire, universale, è un soggetto indistinto, è un soggetto che compie esperienza, che fa esperienza, oppure ci sono tentativi di personalizzare in qualche modo questo soggetto, l'uomo, la donna, il nobile, il borghese e altro? Forse è una domanda banale, ma così, questa prima cosa. E poi un secondo problema era dettato da queste, dalle varie, all'interno, mi sembra che alla fine forse lei aveva fatto un accenno che poteva già essere in qualche modo un tentativo di risposta quando richiamava Kundera, che afferma appunto che il romanzo è in qualche modo la grande forma conoscitiva del moderno. All'interno delle varie, le varie manifestazioni artistiche, romanzo, arte, architettura o altro, riflettono tutte allo stesso modo questa crisi del moderno e del soggetto, oppure in qualche modo si possono individuare delle peculiarità di queste diverse forme di espressione? Rispondo subito, oppure ci sono altre questioni che si propongono? Allora rispondo, ma per rispondere alla prima domanda vorrei sollevare un problema che io ho già sollevato all'interno della mia esposizione, che pensavo che creasse qualche problema. Invece mi pare che non lo crei, e secondo me invece è problematico. Io ho fatto un'affermazione piuttosto pesante ad un certo punto quando ho detto che l'arte di Baudelaire è un'arte tragica. Cosa significa arte tragica? Con arte tragica, io ho spiegato, ad un certo punto è tragica nella fluidificazione dei confini tra bene e male, nel soggetto e oggetto, eccetera, eccetera. Con questo io in qualche modo cercavo di rifarmi appunto a quella che Platone stesso aveva definito l'antica battaglia tra filosofia e poesia, cioè quella grande battaglia che aveva visto nel V secolo a.C. affermarsi contemporaneamente la democrazia e il sapere tragico, e poi l'antidoto a questo sapere nella filosofia. Cioè, che cosa significa questo? Che la tragedia, la democrazia è stata la prima, solo la Grecia ha pensato la democrazia nell'antichità, e ci sono voluti 2500 anni prima che un tema simile, 2300 anni circa, prima che il tema tornasse di attualità e fosse di nuovo pensabile. Contemporaneamente alla democrazia è sorta questa forma di arte che era la forma di un'arte che rendeva costantemente fluidi i confini tra le varie pluralità e contraddizioni del mondo, cioè tra divino e umano, tra maschile e femminile, tra sacro e profano, tra ciò che è nella città e ciò che è fuori della città. Edipo si presenta sulla scena dicendo io che sono chiamato Edipo e autodefinendosi sempre Xenox, straniero. Antigone dice addirittura che lei non sa se il suo luogo è tra i vivi o tra i morti. C'è un'assoluta extraterritorialità. Cioè la tragedia esprime un sapere che tiene vive, diciamo, le alternative e i conflitti, quelli che i greci chiamavano dissoi logoi, cioè i discorsi contraddittori. Nel declino della democrazia declina la tragedia ed è la sua morte è un mistero come la sua nascita, perché la tragedia dura alcune decine di anni e poi sparisce completamente senza lasciare traccia, e sparisce proprio nella vittoria della filosofia che in qualche modo distrugge, disgrega questi dissoi logoi e fa del soggetto che in qualche modo rende fluidi questi confini incarnando nella sua esperienza la duplicità del maschile e del femminile come il Penteo delle Baccanti o del conflitto tra umano e divino come appunto l'Edipo oppure della chiarezza e del mistero come ancora Edipo oppure molti altri personaggi, cioè facendo di questo soggetto che sperimentava questa duplicità e questa tensione, l'irresolvibilità di questi conflitti che si voleva mantenere aperti, appunto un unico pensiero e un'unica verità. Il movimento di Platone è da questo punto di vista implacabile, lo è proprio in una delle opere più belle e stupende dal punto di vista letterario, lo è nel Simposio, quando dice che una volta che io mi sia accorto che la bellezza che amavo in quel corpo o in quell'altro corpo, in quell'altro, è una stessa identica bellezza che si manifestava in questi corpi e che questa stessa bellezza è nei discorsi, nelle leggi, eccetera, io posso amare solo quella bellezza e addirittura lasciar cadere e sacrificare i singoli corpi, i singoli portatori, i singoli soggetti portatori di questa bellezza. Quindi in qualche modo quando io affermo che quest'arte è tragica significa che è un'arte che si ripropone appunto un'esperienza di dissoi logoi e quindi di un soggetto che non è più un universale astratto, cioè un universale astratto il soggetto, ma è appunto il soggetto, diciamo, concreto di un'esperienza concreta. Da questo punto di vista poi la sua domanda però si articolava in un altro piano. Questi soggetti sono individuabili socialmente come il soggetto maschile, il soggetto femminile, il soggetto borghese, il soggetto nobile, il soggetto popolare e così via. Da questo punto di vista è più difficile rispondere, nel senso che c'è evidentemente in tutti questi intellettuali un odio, sono borghesi che odiano la borghesia e la odiano forsennatamente come il discorso in fondo del topos rispetto al loro atopos, il discorso della legge, dell'ordine e così via, dice Baudelaire, nessuno si stupirebbe se un borghese chiedesse del poeta arrosto, dice, mentre si stupiscono se io volessi tenere in scuderia alcuni borghesi, no? Questo era appunto il rispetto così. Però c'è quindi da questo punto, però io credo che questa diciamo odio verso la borghesia o il disprezzo verso la nobiltà come istituzione ormai franata e così via, in realtà non abbia un significato profondo, che in realtà lì il soggetto venga recuperato al di fuori addirittura di definizioni così di carattere sociologico e forse anche di definizione di differenze sessuali. C'è una lettera bellissima di Flaubert a Louis Collet che dice devi fare del tuo sesso una scienza e non un'espansione, cioè in qualche modo devi fare della tua essere femminile, della tua percezione femminile del mondo, una scienza e un sapere del mondo che non deve poi diventare così uno stile femminile, cioè essere riconoscibile appunto come tale esternamente, appunto come lo stile alla George Sand, la plume courant, cioè lo stile corrente, l'espansione, eccetera, eccetera, che è poi uno dei problemi e dei difetti della scrittura femminile anche oggi, che è una scrittura nominale, senza secondarie, spesso di flusso e così via, e spesso sgradevolmente espansiva rispetto a quello che potrebbe dare invece come scienza. E così, quindi da questo punto di vista io credo che la letteratura, e c'è una grande polemica poi in Proust contro l'arte per esempio cosiddetta popolare, contro i romanzi scritti dagli operai o per gli operai e così via. Proust è convinto che al soggetto umano proprio debba essere dato il massimo di sapere possibile, che qualsiasi altro livello di sapere gli venga proposto sia una mistificazione rispetto alla verità, e che quindi in qualche modo si pone in un'anticipazione rispetto a quanto ci dice per esempio Kundera, quando dice il romanzo ha come compito di entrare nelle contraddizioni radicali nella nostra epoca mostrandole fino in fondo, e chi invece in qualche modo ci conferma dentro un'ideologia, come potrebbe essere l'ideologia popolare, operaia, proletaria e così via, è un'opera kitsch, immorale e inaccettabile. Io da questo punto di vista io direi che la grande cultura, la grande letteratura della modernità si è mossa verso una sorta di rimozione della soggettività astratta, ma anche nello stesso tempo di rimozione di quelle che sono le categorie di differenziazione o di classificazione, rendendo anche questi confini piuttosto transitabili, piuttosto porosi, piuttosto sfrangiati. E questo anche nelle esperienze di autori che sono decisamente, non so, si sono affiancati sull'antisemitismo come Céline, oppure su scrittori che si hanno preso posizione per l'una o per l'altra parte, che quando sono veramente grandi noi vediamo sempre sfondare questo limite, diciamo così, dell'ideologia. Ecco, il problema se questo tipo di coscienza sia analogo nelle arti della modernità, della fine dell'Ottocento o dell'inizio del Novecento, sia invece una peculiarità del romanzo rispetto alla pittura o rispetto alle altre arti, io credo che invece ci sia una grande analogia. Quando per esempio Boccioni si chiedeva come cade modernamente una foglia, parla di una percezione del mondo, voglio dire, così così diversa dalla percezione del mondo del passato, dell'evento del cadere di una foglia, così che non è diverso da quello che si esprime negli stessi anni in Hofmannsthal, oppure nella grande scrittura o così via, o in Kafka, eccetera. Il problema è che il quadro che io ho proposto rappresenta una tradizione, ecco, questo sì, rappresenta una tradizione della modernità, e tra il resto non quella più evidente, non quella più, quella che è stata vincente fino a pochi decenni fa, perché la tradizione della modernità che si è dichiarata, che si è mostrata vincente nella modernità fino a pochi decenni fa, fino a pochi anni fa, fino a pochi mesi fa addirittura in certi casi, è stata invece quella che ha, partendo appunto da questo progetto di soluzione, cioè di questo grande progetto hegeliano, diciamo, che di fronte al nuovo che viene, per segni forieri, attraverso la noia, attraverso lo sgretolamento delle forme del passato, si pone ancora una volta il compito di un'ultima grande ricomposizione unitaria di questo progetto, di questa modernità, facendo addirittura una ricostruzione di tutta la storia così del movimento dello spirito, delle contraddizioni, per mostrare come anche nel passato le grandi lacerazioni, per esempio anche quelle tragiche, quelle di Antigone, hanno trovato un'eredità in un momento superiore, la filosofia, Socrate e così via, e per mostrare quindi come anche le grandi contraddizioni che si aprivano sulla scena della modernità potevano essere composte all'interno appunto di questo sviluppo lineare della storia lineare. Quando diciamo lineare facciamo una semplificazione: Hegel era cosciente che la storia è un banco da macello, è cosciente di tutto quanto si consuma sulla storia, anche di tutti i residui e così via, ma comunque diciamo in un modo progressivo, tanto che la tappa ulteriore in qualche modo giustifica quello che è avvenuto prima. Marx, per esempio, non è distante da questo tipo di coscienza, oppure non è, diciamo, non sono distanti da questo tipo di coscienza, anche se già molto più disincantati, i grandi teorici politici della modernità, Max Weber o altri, così, che vedono in un certo tipo di gestione della società comunque la soluzione e la semplificazione dei conflitti. Direi che questa è l'immagine della modernità che è stata vincente. A mio giudizio questo potere di questa tradizione ha oscurato che fin dall'inizio la modernità ha avuto, come dire, un'altra faccia più oscura, più aperta, più arrischiata, più appunto legata a questi interrogativi, a questi dissoilogoi, a questi discorsi contraddittori. Cioè, quando per esempio Dostoevsky avanza nei Fratelli Karamazov la sua domanda terrificante sul pianto del bambino: che cosa giustifica e paga il pianto del bambino? Quale teodicea politica o umana o divina può giustificare il pianto del bambino oggi? Si può dire che una società futura perfetta giustifica il dolore, paga il dolore attuale di questo bambino? Ecco, questa è una domanda che, per esempio, a mio giudizio irrompe all'interno di queste della storia, delle magnifiche sorti e progressive del genere umano, di questo progresso comunque, ponendo una domanda alla quale nessuno ha potuto dare risposta, se non aggirandola. E io ho l'impressione che, voglio dire, che questo aggiramento via via sempre più cospicuo che la filosofia, che la politologia ha fatto dei grandi conflitti che si sono apparsi, o dei nuovi soggetti che sono apparsi sulla scena storica, ha fatto sì che noi ci mettiamo di fronte, per esempio, a Simone Weil, che negli anni 30 aveva capito tutto del nazismo, o Benjamin, che all'inizio alla fine degli anni 30 ci spiega esattamente perché la socialdemocrazia ha perso, di fronte a filosofi che anche 20 anni dopo non hanno saputo dire una sola parola sull'evento. Parlo di Heidegger, che neanche nel testamento è riuscito a trovare una parola per parlare di qualcosa che ha lacerato il mondo e l'umanità e il genocidio, oppure politologi che 20 anni dopo, come Carl Schmitt, attraverso una metafora, quella di Benito Sereno, sono venuti a parlare di questo orrore del potere, ma con un mutismo secondo me stupefacente, che si ripete sempre più spesso. Io non so, ricordo per esempio le ultime elezioni, il commento del politologo Giuliano Ferrara di fronte alle leghe, al fenomeno delle leghe, dice: è l'espace d'un matin, domani mattina non esisteranno più, no? Oppure durante la guerra nel Golfo i politologi a venire alla televisione e dire le più triviali e le più sconcertanti banalità che si potessero pensare, proprio per l'impensabilità, voglio dire, di molti eventi che si affacciavano sulla faccia della terra. Per esempio l'ironia e l'incapacità di capire, faccio un solo esempio che a me ha colpito, quando Saddam Hussein ha parlato della madre di tutte le battaglie, tutti hanno letto la guerra, la battaglia definitiva, quella sul deserto, sulla terra, no? E quindi la battaglia finale, mentre la madre delle battaglie, secondo me, voleva dire una battaglia che genera altre battaglie, non la battaglia terminale, ma una battaglia iniziale. Però non ho sentito nessun commentatore cogliere questo aspetto. Quello che sta capitando oggi in Algeria, per esempio, non è una battaglia generata da quella battaglia lì? Io me lo chiedo, non è che io abbia una risposta, però perché i filosofi e i politologi non ne hanno affatto? Voglio dire, questo svicolare continuo rispetto all'emergenza di nuovi soggetti, di nuovi problemi, di nuove realtà, di anche misteriose, anche inquietanti, che si sono affacciate sulla scena politica e storica del nostro tempo, della nostra realtà, a mio giudizio rendono sempre più evidenti, e non è proprio la crisi di certi linguaggi. E noi vediamo che, per esempio, assodata, per esempio, la crisi della dialettica hegeliana e post-hegeliana, anche marxiana e così via, oggi i filosofi cercano delle vie curiose, insomma, si trasformano in imitatori di romanzieri, scrivono curiose novelle come Gargani, come Rorti, oppure come Rovatti invocano il silenzio, l'ombra e queste figure, che sono figure straordinarie, ma per dopo dire, subito la preoccupazione più grande è quella di dire che quell'ombra, quel silenzio, quella frattura era già detta nell'epoché di Husserl, che questa non è incompatibile con la Lichtung heideggeriana, cioè come questo desiderio di rilegittimazione, cioè di reingresso nella casa, appunto, della filosofia, che indica oggi, secondo me, una debolezza, ecco, di questo pensiero rispetto alle esperienze più audaci, più radicali non soltanto delle opere narrative, artistiche, musicali o architettoniche del nostro secolo, ma anche, direi, dei teorici, dei critici che hanno avuto il coraggio di affrontarle faccia a faccia, come fossero e come di fatto sono, un pensiero, ma non un pensiero che dovesse nutrire un altro pensiero, l'operazione che Heidegger fa quando legge Elderlin e Rilke per nutrire la sua filosofia e trovare la verità lì per introdurla dentro un altro linguaggio, ma per vedere qual è il movimento di questa verità, il movimento che si muove in uno stile. Non posso io parlare di Baudelaire senza, diciamo, tener conto di questa scoperta che lui fa, che la pluralità del soggetto, del mondo, può essere detta soltanto in una lingua che risponda da un lato ai soprassalti della coscienza, dall'altro all'urto delle città immani, e quindi, cioè, svincolarla dallo stile. Forse c'è, purtroppo, io dico purtroppo da questo punto di vista, una divisione disciplinare che fa sì che certe cose risultino invisibili. Io sto lavorando adesso, appunto, su questi frammenti di Baudelaire. C'è un frammento di Baudelaire straordinario in cui richiama in modo proprio preciso la creazione come caduta, grande concetto gnostico della gnosi, sia della gnosi cristiana sia della gnosi ebraica. Baudelaire parla di autori gnostici fin dalla giovinezza, fin dai primi scritti. Ora, il commento dei critici più accorti su questo testo è l'assoluto, il commento è questo, ve lo riassumo. Questa boutade non può essere di Baudelaire, perché Baudelaire non ha mai avuto un razionalismo volteriano di questo tipo. Cioè, come se la concezione gnostica della caduta di Dio, come la creazione come caduta di Dio, fosse un concetto volteriano e non un concetto gnostico. Il che significa che i critici letterari che analizzano Baudelaire in realtà mancano di quella conoscenza che gli impedisce di capirlo su questo piano. Ma viceversa, il filosofo che legge Baudelaire spesso non ne capisce il linguaggio, Per cui succede, come dice per esempio Henrichs a proposito delle Baccanti di Euripide, che questo testo ha sofferto per il fatto di essere letto da grecisti che non sapevano nulla di storia della religione, da storici della religione che non sapevano nulla della tragedia greca, in sostanza. E quindi lì, forse proprio in questi autori che hanno così radicalmente anche fluidificato le frontiere interne alle loro, alla loro opera, Baudelaire è il più grande poeta del XIX secolo, ma anche colui che inventa la critica d'arte, la teoria dell'arte, è un narratore, è un critico letterario, è un moralista, voglio dire, guardiamo Leopardi, mettiamo a confronto le poesie, lo Zibaldone, le operette morali, cioè chi è andato proprio ad una fluidificazione dei generi proprio all'interno della sua opera, forse meriterebbe uno sguardo altrettanto fluido, ecco, per poterne cogliere i movimenti. Grazie, c'è qualche altra domanda? Prego. No, io sono perfettamente d'accordo con lei su questo punto, sono d'accordo sul suo giudizio su Kierkegaard e sono d'accordo sul suo giudizio su Nietzsche, che a mio giudizio è proprio uno di quei grandi scolli nella storia del pensiero sui quali proprio cambia corso, proprio il corso dei nostri pensieri. E da questo punto di vista diciamo, quando io ho criticato la filosofia, avrei dovuto precisare che criticavo un certo tipo di filosofia che si è reso in qualche modo ufficiale all'interno delle accademie o si è autorizzato, che ha giudicato sempre con un certo sospetto Kierkegaard, sul quale abbiamo pochissimi studi che non siano, diciamo così, in qualche modo legati all'ambiente religioso, cattolico, protestante direttamente, quindi traducendo questo pensiero dentro un pensiero religioso, che è una maniera anche per rimuovere la sua dirompenza ovunque, cioè questa, oppure Nietzsche, che è stato fatto oggetto, a mio giudizio, di uno dei più vasti movimenti di rimozione che siano stati operati intorno ad un filosofo, da almeno prima attraverso la sua utilizzazione in termini vitalistici, politici, eccetera, e da 30 anni a questa parte attraverso appunto questa, la scolastica heideggeriana, no? Questo fare di Nietzsche l'ultimo scampolo della metafisica, superato appunto da questa ontologia, così a me pare che sia appunto un tentativo di rimozione per non confrontarsi su questa filosofia a tutto campo che Nietzsche propone, correndo il rischio anche lì di una fluidificazione dei confini tra la fisiologia, la filosofia, la riflessione, quando parla di filosofia come medicina, oppure quando recupera i logoi del pensiero tragico, quando si muove addirittura attraverso le forme della poesia, non soltanto nei ditirambi di Dioniso, ma appunto nelle tensioni dello stile dello Zarathustra e così via. Da questo punto di vista io credo che ci sia una marginalità rispetto a quella che è la filosofia, diciamo, più ufficiale, e infatti non è soltanto Lukács nella distruzione della ragione che cerca di far piazza pulita di questa tradizione che io vi ho presentato, ma sono anche i nostri filosofi. Paolo Rossi ci ha impiegato una vita per cercare di tagliare le gambe a tutti quelli che si riferivano a Nietzsche o vagamente o così via, e così via. Però nella sostanza sono pienamente d'accordo con lei, perché poi quando io da questo punto di vista sono critico della filosofia, ma sentendomi sostanzialmente un filosofo, perché rifletto e cerco di riflettere attraverso anche la letteratura e attraverso queste forme sulle contraddizioni del nostro tempo, della nostra tradizione, della nostra storia. Quindi da questo punto di vista qui condivido pienamente, ecco, il suo contributo, la sua critica, e mi scuso, ecco, dell'ambiguità che forse è rimasta nel mio discorso, ma sono convinto, ecco, che sicuramente il nome che lei ha fatto, Kierkegaard, Nietzsche, io a questo aggiungerei il nome di Simone Weil, per esempio, o di Benjamin e così via, rappresentano dei vertici del pensiero che non sono vertici letterari, sono vertici che io vorrei chiamare proprio propriamente filosofici, anche se tenuti costantemente ai margini, diciamo, della filosofia ufficiale. Pensiamo per esempio al destino di Simone Weil, forse il cervello più acuto di questo secolo, che solo adesso entra lentamente dentro